se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaira. E buon weekend. Eccoci, buon weekend. Come procede l'estate? Speriamo bene. Oramai stessa spiaggia, stesso mare. Come per quest'anno. Io adoravo l'idea di ritrovarmi ogni anno nella stessa spiaggia e ritrovare le persone con le quali poi cresci, no? Sì, oggi, come sempre, le spiagge sono affollate anche di bambini. E te, tra l'altro, mi raccontavi, no, di questa cosa, sì, dei bambini, che te, la, già la bambini... calca non ci piace. No, poi sai, lì purtroppo dipende. Ci sono posti dove c'hai più spazio e quindi non hai gli ombrelloni accatastati uno sopra l'altro, però voglio dire, di base ci sta che se tu in una spiaggia trovi dei bambini maleducati, che tu sei lì a prendere il sole, che ti sei messo l'olietto, questi corrono, giocano a palla, ti arriva il pallone insabbiato addosso, urlano come veramente non si capisce. Ci vuole un po' più di garbo da questo punto di vista. La colpa è dei genitori che non li hanno educati, perché quando eravamo piccini noi, mia madre mi diceva questo si può fare, questo no. E questo no, ti dava dei limiti. Sai che la stessa cosa si deve fare assolutamente con i cani. Tra l'altro la gente confonde gentilezza con permissivismo. Tu puoi, esatto, essere gentile, ma porre un limite e dichiarare che quello punto e non si travalica. Sì, infatti, tu fra l'altro una volta mi parlavi di un libro che si intitolavano... I no che aiutano a crescere per i bambini, non i per no i cani. Che aiutano a crescere, beh, ovvio, per i bambini, suppongo. Per sì, i sì, cani. No, ci sono anche il cane va educato, però siccome mi sembra di notare che in questi ultimi, grazie a Dio, anche l'Italia si sta aprendo a far andare in spiaggia con il proprio cane. Bellissimo. Fantastico, proprio perché noi siamo poi promotori. Bellissimo, se non ci trasciniamo il cane in spiaggia, perché dei cani farebbero anche a meno della spiaggia, per carità. Però se il cane è giusto, si stressa poco ed è contento, ben venga chi ci permette di portare il cane in spiaggia. Però anche lì sta al padrone del cane ad averlo educato, a saperlo tenere, a non obbligarlo a dargli da bere, a tenerlo all'ombra, a non obbligarlo a entrare in acqua. E far sì che le persone non debbano essere vittime magari della maleducazione del cane. Allora, per questo proposito, io un po' di mesi fa ho avuto il piacere di conoscere Umberto Buratti, che è sindaco di Forte dei Marmi, perché lui ci aveva chiamato. È ben interessante questo. Infatti, perché lui è amante dei cani, credo che sia già in linea, ce lo facciamo spiegare da lui. Umberto? Buongiorno. Umberto, buongiorno. Umberto, ecco, io lo saluto subito come fosse un grande amico di vecchia data. È il sindaco di Forte dei Marmi, voglio ricordare, quindi insomma il dovuto rispetto. Senti Umberto, a me mi aveva colpito perché quando ci siamo fatti una chiacchierata al telefono tu mi hai subito detto dell'amore che hai per il tuo cane. Ma sì, per i cani in generale, per tutti i cani. Certo. Proprio, perché poi i cani, come sapete bene voi, insomma, poi il cane capisce subito se ha a che fare con una persona che, come dire, gli vuol bene, se ha... Oppure no. Io con tutti i cani che incontro sono tutti che mi vengono a fare le feste, a salutare e a fare le feste. Bellissimo. Senti, che razza è il tuo cane? Non mi ricordo. Un golden. Allora ricordavo giusto, perché può essere che io ho visto le fotografie di te che passeggi col golden in spiaggia. No, tu hai visto la mia campagna elettorale che hai fatto col cane. Ho fatto col cane sia la prima nel 2007 e la seconda nel 2012. Favoloso. Nella prima c'era scritto, perché si chiamava Amo il Forte, Umberto 47 anni ama il Forte, e poi c'era scritto Jacqueline ama la pappa e il Forte. No, perché sai, in quanto cittadino a me piacerebbe sapere chi, quando vado a votare, chi ama i cani e chi no, perché certo, sarebbe una bella discriminante, credo. Ma sì, poi guarda, secondo me chi ama i cani ama anche le persone, perché poi, come dire, secondo me c'è questo necessità, e forse in certi momenti questi cani sono, per alcune persone, non ci dimentichiamo, sono gli unici esseri viventi con i quali riescono anche a dialogare e a convivere. Verissimo, ne abbiamo parlato. E sono loro sono i veri amici nostri, forse noi a volte non lo siamo. No, sono pienamente d'accordo. Tu quanto tempo passi? Tu cosa fai? Fai anche jogging, passeggiate? Più che altro passeggiate, ma poi credo, è quello che sto cercando di fare come sindaco, creare le condizioni perché tutti coloro i quali hanno il cane possano soggiornare e stare con loro. Ora in questi giorni stiamo per aprire, inaugurare uno sgambatoio che abbiamo realizzato nel centro qua di Forte dei Marmi. Mm. Cos'è uno sgambatoio, scusami? Uno sgambatoio per cani è uno spazio dedicato al cane, dove possono stare loro a correre, a fare, lasciare quello che vogliono. Quello che vogliono. Però qua a Forte i cani, un po' in tutta la regione toscana c'è già da qualche anno una legge che consente di portare i cani da tutte le parti, in qualunque luogo. Quindi anche le spiagge? Anche in spiaggia c'è la possibilità per il concessionario di chiedere, di comunicare, come dire, quando è l'accessibilità. Mm-hmm. Però la maggior parte dei concessionari hanno lasciato, insomma, la disponibilità, quindi i cani ci sono. Cioè, cosa vuol dire hanno lasciato la disponibilità? Nel senso che non danno degli orari e dicono quando volete? H24. Favoloso. Altri hanno detto invece, perché a seconda anche dei clienti e tutto, allora dicono, beh, da noi il cane dalle 18 del pomeriggio in poi, oppure la mattina fino alle 10 del mattino, non quando, anche se da noi non è che abbiamo, per fortuna le spiagge non sono affollate, voi sapete che Forte dei Marmi caratterizza la sua spiaggia perché i punti ombra sono distanziati gli uni dagli altri, quindi non c'è quella folla che Senti, è la caratteristica. Tu hai avuto modo di avere, che ne so, un feedback delle persone che sono tornate con un anno, da un anno con l'altro, e magari l'anno prima non si poteva andare in spiaggia col cane, persone che sono, che hanno i cani, che vivono con i cani, e l'anno dopo di botto hanno visto che c'era la possibilità, il piacere di portare in spiaggia gli animali. Hai avuto modo Senti, io ho avuto modo, dialogando con alcune persone, che poi quelli che amiamo i cani, insomma, ci comprendiamo subito, ci vediamo subito, e con loro, con alcuni di loro che sono contenti di portare in spiaggia, altri interpretano invece, proprio pur amando il cane, avendo il cane, dice, salvo il mio cane soffre un po' troppo al sole, e questo va detto, ci sono alcune razze che è bene non portarli poverini al sole, perché per loro sarebbe una sofferenza, e poi ecco, però visto che c'è, più che altro, ecco, hanno valutato positivamente questa cosa che la Toscana ha fatto di dare questa accessibilità. E quindi c'è stata una bella convivenza anche da parte di chi il cane non ce l'ha, però non gli ha dato fastidio avere magari il vicino d'ombrellone con il cane. Sì, questo devo dire che al momento, da quando è entrata in vigore la legge, io ho sentito poche lamentele. Cioè, quelle, come sai, ci sono sempre, certo, no? Quelle cosa qualsiasi cosa fatto. Faccia. Esatto. Ecco. Però noi qua a Forte dei Marmi, tra l'altro, noi abbiamo un'idea, un progetto che vorremmo realizzare, anche perché dobbiamo dar seguito alle ultime volontà di una signora che ha lasciato un'eredità al nostro comune, per fare qualcosa per i cani. Senti, Umberto, ti faccio una proposta così in radio direttamente. Sì. Se vuoi la pensiamo assieme, perché la cosa bella sarebbe, come si dice, pensare uno spazio per i cani a 360 gradi, un po' come Polo Zoo Antropologico, come Angelo ha scritto una volta, una proposta che ti farò vedere, veramente, che dovrebbe diventare d'esempio per tutti gli altri canili d'Italia, dove tutti quanti dovrebbero ispirarsi. Ti va? Benissimo, io ti do subito la mia disponibilità e adesione, quindi incontrarvi quanto prima. Noi abbiamo, come dire, e poi se venite a Forte, insomma, in questo periodo è che si sta poi così male, no, esatto, magari non possiamo parlare. Veniamo sicuramente. E appena abbiamo, perché ora stiamo cercando, in questi giorni ci dovrebbero essere delle novità, perché ahimè purtroppo dei parenti molto alla lontana hanno fatto opposizione a questa volontà testamentaria, però noi stiamo andando avanti proprio perché vorremmo fare questa bella cosa. Va bene, senti, intanto ti ringrazio della disponibilità. No, grazie a voi, grande sindaco. Grazie. Buratti, ci vediamo presto. Un abbraccio a tutti. Grazie, voi. Buon lavoro. A presto. Ciao. Rimanete con noi, ci vediamo su Radio 24 fra due minuti. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Senti, ma è giusto? Me l'ha detto. Chi ti ha detto cosa? Tuo cugino. Mio cugino, sempre lui. Sempre tuo cugino. Cosa ti ha raccontato stavolta? Si sentiva un po' in colpa perché dice, mannaggia, io lo so che non dovrei farlo, ma io il cane lo tengo sul divano. Sul divano. E me lo porto a dormire a letto. È felice? Chiediamo al cane, è felice se sul letto, sul divano? Secondo certo che è felice il cane, secondo te i nostri cani sui letti, sui felici sono sul letto? I nostri cani sono sul felici. Letto, sul divano sono felici? Sono felici, beh ovvio dipende, se uno si prende il cane, se lo porta sul letto, sul divano, lo obbliga a stare lì come a volte succede, ci sono i bambini che prendono il cagnolino e fanno queste cose, in quel caso non è felice, ovvio. Però i cani amano andare sul letto. Sul morbido. E sul divano. E quante volte ci fermano e ci chiedono: ah, guarda, lo so, tu sei un educatore cinofilo, io faccio questo errore, mi prendo il cane. Tutti. I miei cani dormono sul letto con me, lo so che è un errore. In realtà, non è un errore. No, infatti, perché voglio dire, se, come in tutte le cose, se non dà fastidio a noi che viviamo con i nostri cani, facciamo bene a farli salire, se no no. Qual è? No, allora, la complicazione è questa. C'è tutto un filone di addestratori mm-hmm. che dicono che se tu fai salire il cane sul letto, lo fai passare per primo dalla porta, lo fai camminare davanti a te al guinzaglio, e gli fai mangiare, dai da mangiare prima di te, e gli dici che lui è il dominante. Sì, il capobranco. E che lui è il capobranco. Questo è falso. Falsissimo. È falso. Sebbene ci sia, a volte ci sono dei cani con problemi comportamentali che devono essere affrontati con una ristrutturazione sociale, per cui in quel caso mi raccomando il veterinario comportamentalista, l'esperto in comportamento può prescrivere che il cane non stia sul divano, ma queste sono eccezioni. La regola è che il cane non ha nessun problema dal punto di vista educativo a stare sul letto o sul divano, potete goderveli quanto volete. A meno che, dicevo, non sia una persona che gli dà fastidio l'idea che l'animale stia ma sul certo, letto con te o sul divano. Ovviamente non è un obbligo dall'altro lato. I cani sono felici anche giù dai letti dai divani. E se noi non gradiamo questa cosa, semplicemente li teniamo giù. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. È bellissimo. Ma guarda, non potrebbe essere più azzeccato. Grande Gaber, veramente mi inchino alla saggezza di Gaber e al grande artista che è stato. Ora siamo sulle supposte di saggezza. Che suppostina ci hai dai oggi? Sai cosa? Che la libertà è una delle cose di cui anche gli animali hanno bisogno. Noi ce le dimentichiamo con gli animali negli zoo, ce ne dimentichiamo con i cani legati alla catena. Esatto. Quindi, visto che le pillole le abbiamo finite, la pillola di saggezza, oggi diamo un bel suppostone a chi tiene il cane legato alla catena, perché è una cosa proprio che ma addirittura chi magari dice: oh, ma come, io c'ho il giardino, lo lascio libero in giardino. Se però sto povero Cristo di cane sta in giardino solo, non socializza mai, e lì a volte vedi i cani che girano su se stessi in giardino, che fanno anche i solchi. Bravissima. Quando quel girare su se stessi è un sintomo, si chiama stereotipia, ed è il sintomo che il cane purtroppo se la vive molto molto infatti, male. Povero. Detto ciò, io vi ho una storia che poi vi farò raccontare bene, ma vi voglio raccontare solamente l'antefatto. Bruno mi ha raccontato che da grande per la chi prima Bruno, scusa. Bruno, mio cugino. Questo è davvero, veramente tuo mio cugino. Ha avuto ha questa gioia adesso, ha questo cane Ciccio, che è un cane da caccia. Uh-huh. L'ha adottato perché il cacciatore ha deciso di chiuderlo nel recinto e tenerlo alla catena per 3 anni, perché quando andava a caccia, appena sentiva sparare, Ciccio scappava invece di andare a prendere la preda. Non era giustamente contro la caccia, saggiamente Ciccio. A volte gli sparano addosso, questi cani li abbandonano. Ecco, appunto. Insomma, lui ha vissuto alla catena per circa 3 anni, 2 o 3 anni, quando poi l'ha adottato mio cugino Bruno. E questo non sappiamo se è stata proprio una fortuna per questo cane. Brunino! Buongiorno! Buongiorno! Come stai? Senti, il tuo rapporto con Ciccio. Grazie, il mio rapporto con Ciccio è straordinario. A proposito di catena, io certo ogni giorno rischio la multa, perché come sapete io non solo non lo tengo alla catena, non lo tengo purtroppo neanche al guinzaglio. Non lo tieni proprio. Tutto il tragitto che da casa al recinto del giardino dove vado io, del parco dove vado io, però questo in quel tragitto, come l'altra sera, rischio una multa dai 30-50 euro. Però aspetta, questo vabbè, no, ma a me la cosa che mi ha colpito del tuo rapporto col cane, perché io ho cani da quando sono piccola, che sono malato, ho raccattato qualunque genere di animale, specie animale, ma tu invece hai scoperto da adulto che cosa è la relazione con un cane, no? Ah, guarda, è una cosa straordinaria. Sì, è davvero da adulto, perché io a un certo punto della mia vita ho detto: una persona mi ha consigliato: perché non prendi un cane? Ho detto, vabbè, proviamo, ho visto su internet c'era Ciccio, bisognoso di affetto, abbandonato dalla mamma e dalla sorella. Ma no, amore, era tuo, è mio. Sono andato al canile che era lì da 3 anni in una gabbia, poveretto, perché poi lì al canile poteva non portarlo fuori una volta. Aveva neanche l'ora d'aria che si ha a San Vittore, aveva un'ora alla settimana, al sabato, per farlo vedere a chi voleva adottare il cane. Insomma, sì, perché non dimentichiamo che a volte nei canili mancano proprio le risorse, cioè voglio dire i volontari, esatto, che si prendono cura dei, esatto, cani, devono pulire, devono dargli da mangiare, sono in pochi e a volte, esatto, il cane non riesco... quello era il caso. E a un certo punto io me lo sono preso, adesso dopo alcune vicissitudini iniziali, sì, di assestamento, no, ma allora scusami se ti interrompo, quello che bisogna, mi sono dimenticato di dire, è che tu sei un uomo distratto, difatti sì, sarà... sono un uomo molto molto distratto. E tant'è che gli amici del parco Baravalle, dove io vado tutti i giorni, chiamano Ciccio il mio badante. Ecco, per farvi capire questo no, cane. Perché poveretto, succede che io esco di casa, io abito a Pianterreno, esco di casa, vado verso il parco e vedo che Ciccio dopo un po'... Sì, e ogni volta che esco ritorno a casa perché ho dimenticato, qualcosa 3 o 4 volte. Allora una volta, un giorno esco tranquillo, vado verso il portone d'uscita e vedo che Ciccio si ferma e torna indietro. Ho detto, ma perché torna indietro? Poi ho detto, ah certo, mi sta ricordando che sto cercando qualcosa. Tu però... pensa questo, da quanto tempo vivete assieme tu e Ciccio, Bruno? Viviamo assieme da 6 anni. Tu pensa che quindi per 6 anni lui ti ha visto uscire, fare il pianerottolo, andare giù, tornare indietro, esatto, 3 o 4 volte, quindi a un certo punto se tu prendi e vai buona la prima, lui dice, aspetta un attimo. E tipo, con quegli occhioni mi guarda e dice, dove stai andando? Dire, ma che ti sei dimenticato? Non è che hai dimenticato il lettore, dimenticato l'iPhone. Senti, qui c'è un nostro amico Guido che ti ha sentito raccontare e mi ha fatto una domanda che ti rigiro immediatamente e chiedono, ma ti sei mai dimenticato di andare al parco con Ciccio? La risposta è sì. Come si sa? Una volta sono andato al parco solo col guinzaglio e a un certo punto vedo che tutti i miei amici del parco mi guardano e guardano attorno a me, dico, cosa guardate? Mi guardano ai piedi, mi guardano intorno, e dice Ciccio, orco Ciccio, tu sei uscito al parco col cane lasciando a casa il cane, lasciando a casa il cane e portando solo il guinzaglio, mi sembra giusto, meno male, ero povero sudato Ciccio, però contento che non l'avevo lasciato per la strada. Ma meno male, no, anche perché in quel caso il cane, che è molto più attento e sveglio, ti avrebbe seguito lui o tornava a casa o veniva direttamente al parco. Cioè, cani maestri di pazienza, come si dice, la realtà supera la finzione, e da qui si evince anche, diamo questo annuncio in anteprima, che io e Bruno vogliamo scrivere un romanzo che si intitola Storia di un uomo distratto. Ecco, ne avrete da raccontare. Qualcuno dei protagonisti sarà Ciccio sicuramente. Ovviamente. Senti, è cambiata la tua vita, a parte questa cosa, no, che ti ricordo? Tantissimo, guarda, io veramente, io sai, allora, ti dico, io ho fatto addirittura l'altro, adesso non so se... Ho fatto un sogno l'altra notte, pazzesco, in cui veramente, addirittura, dopo che c'è stato il compleanno di mia figlia, ho fatto un sogno terribile, devo dire, non so se mi piace condividerlo con gli ascoltatori, ma un sogno terribile in cui Ciccio veniva investito da una macchina e poi io prendevo, dato che era il compleanno di mia figlia, prendevo in braccio Ciccio, e non era Ciccio ma era mia figlia. Madonna. No, terribile. Capito. Però questo, come dire, dà l'idea, dall'identificazione che io... Sì. Con Ciccio, come se fosse mio un figlio. Ecco, credo sia questa. Adesso non vorrei un'interpretazione troppo elementare di questo sogno, ma veramente per me è cambiata la vita proprio. E sono ansioso come una mamma, voglio dire, quando esco, che vado a giocare a biliardo, vado in giro, vado fuori, la cosa dico, ma no, Ciccio, gli dico, senti, adesso torno, mi raccomando, stai qui, lui è bello tranquillo sul suo divanetto. Vedo che parlavate di divanetto prima, quindi dorme sul letto. Quindi dorme sul letto con te, Ciccio? Assolutamente. Dice ovvio. Assolutamente. Assolutamente. Lui, naturalmente, conquista il letto matrimoniale perché inizia dal fondo, io lo lascio sul fondo e poi arriva lì pian piano al suo livello, al centro, e tu cadi. Senti, buonanotte. È vero che una volta che si vive con i cani non si riesce a immaginare più rientrare a casa e non avere questi esseri che ti scodinzolano? Io ho molti amici che mi dicono: è morto questo il mio cane, non l'ho più ripreso. E io ho il terrore, so che forse ne riprenderei uno, ma il terrore sai cos'è? Quello di, come non so, una donna che è amato tanto, di non volerlo sostituire. Ecco, questo sentimento è una cosa fortissima. No, guarda, io che ci sono passata ti posso dire che non ci sono sostituzioni, ci sono nuovi amori tanto speciali e diversi e tanto valido ognuno per quello che è. Senti Bruno, grazie mille. Grazie a voi. Grazie Bruno. Un bacione. Ho fatto questa bella cosa, finalmente i cani in radio, ecco. Salutaci Ciccio. No, ma non nel senso voi cani, nel senso che finalmente la trasmissione sui cani. Ah, ma guarda, ma se a me danno del cane sono solo che contenta. Ciao, ciao Bruno. Un abbraccio. Ciao. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Ma che meraviglia. I 10 animali più pericolosi al mondo. Partiamo subito con questo. Riprendiamo un articolo scritto su Vanity Fair da Matteo Maffucci, che ci fa un elenco di 10 animali più pericolosi al mondo. E noi partiamo dal decimo fino ad arrivare a più pericoloso di tutti. Cercate di indovinare, man mano che andiamo avanti, no? Quale sarà? Tipo al decimo posto, no? Chi abbiamo? L'avete capito? L'ippopotamo. Con questo suo fare molto paccioccone, no, eccetera, faccia 500 vittime l'anno. Nono posto è il coccodrillo. Fa che te magna il coccodrillo se non stai attento. 1000 vittime l'anno. Mille vittime l'anno il coccodrillo. Beh, il coccodrillo posso anche capirlo, poraccio, c'ha ragione, ma si magnasse quelli che ci fanno le borsette, scarpe, ma le veramente, cose. Veramente, è un po' allora, incavolato il coccodrillo. Ottavo posto. Il coccodrillo come fa? È rimasto il coccodrillo. Ottavo posto c'è il lombrico. Lombrico Ascaris. Ascaris. Ascaris, cioè Asterix. Lombrico Ascaris. No, perché non se lo immagino? Il lombrico quante vittime fa? 4500 vittime l'anno. Cioè, ammazza più un lombrico dell'ippopotamo. Ma vedi un poco. Poi al settimo posto. E che è? Cos'è questo? Le bolle. Qualcuno che si fa una nuotata. Un bidet. Il settimo posto c'è la lumaca d'acqua dolce. Che si fa una bella nuotata, no? Questa qui poi ti viene addosso e ti ammazza con quante vittime fa? 10.000 vittime l'anno. 10.000 sì, vittime. Sì, però scusa, io tutta la vita che vedo le lumache ci gioco, qualcuno le mangia, la lumaca, come faccio a capire se è d'acqua dolce? La lumaca d'acqua dolce magari sarà un'altra lumaca. Io l'acqua dolce piove, la lumaca mica sta in acqua. Vabbè, oddio mio. Cioè, chiediamo aiuto a casa. Sesto posto. La cimice assassina. Cioè la cimice assassina, c'è una specie così, c'è una... fammi sentire di nuovo come fa. Non lo so, a me la cimice già poverina, io non ammazzerei nessuno, ma la cimice, cioè, non la schiaccio fobia. Perché puzza, io ho la fobia. Ho paura degli insetti perché sono allergica. Scusa, sai quante vittime fa la cimice assassina? Quante? 10.000. Ma in che modo? Che vuol dire cimice assassina? Cioè, che è la non è la cimice comune. Te lo dico io, perché si avvicina, ti fa una puzzetta e t'ammazza. E muori. No, non vorrei preoccupare a casa che uno vede una cimice. Magari già ha paura della cimice e pensa che questa sia la cimice assassina. Si tratta di una specie particolare di cimice, immagino. Ah, poi scusami, ci siamo dimenticati di dire che cosa ti fa venire. Ti fa venire il morbo di Chagas. Appunto, ma non è la cimice comune che Chagas, difatti. Vabbè, ma perché io te ma me lo suggerisco dalla regia, cercare Chagas. Di rimanere serio, non era Chagas, era Chagas. Chagas. Quindi chissà che si è magnata la sera prima la cimice assassina. 10.000, sempre 10.000. Al quinto posto, che la conoscete tutti, c'è la mosca zezze. Scusa. Ecco, ma Rosita, ti ho detto mille volte, il tuo karma peggiora così, tu ammazzi la mosca e il tuo karma ti torna indietro. Comunque, potevano male le cose. Anche la mosca zezè fa 10.000 vittime l'anno e fa venire la malattia del sonno. Sarà mica quella che ho io, cronica, però non mi ammazza. Ah, mi spiego un po' di cose adesso. Bon, e invece, al quarto posto, il miglior amico dell'uomo è purtroppo anche qualcosa che... Spera in me, solo in me. Questo qui, io so chi è questo e lo amo. Questo è Ka, il serpente del libro della giungla che sta cercando di ipnotizzare Mowgli. Se tu dormi, sai che qua... 50.000 vittime l'anno. E ci credo, lì insomma ce lo potevamo aspettare, insomma ci sono dei serpenti che sono velenosi, possono mordere e quindi mietere vittime. Poi salendo al secondo posto c'è io ascolterei tutta questa, ragazza, non è che stavo zitta perché non sapevo che cosa dire. Io delle zanzare ho veramente il terrore, quindi stupenda. Malaria o dengue? Sarà dengue. Non c'è gas la zanzara, ma c'è il dengue, la malaria. La zanzara è la zanzara, vuoi sapere quanta gente ammazza l'anno la zanzara? È uno degli animali più pericolosi. 725.000 vittime secondo l'anno. Posto, cioè poi. Secondo posto, cioè pensa, 700.000 vittime l'anno, io mi immagino che cos'è il primo, ma chi è poi quello che sta il primo? Già mi non abbiamo la statistica di quante persone ammazza l'anno il primo, ma secondo me ci potete arrivare da soli, sono parecchie. Primo posto c'è, e io mi vergogno, l'essere umano. L'uomo è l'essere vivente sulla terra che più pericoloso al mondo. Fra l'altro, io una volta tu mi hai fatto notare una cosa che mi è rimasta impressa, che il mondo, se scomparisse l'uomo dalla terra, andrebbe avanti meglio di noi. Se invece scomparissero, per esempio, cioè meglio di come sta andando avanti adesso. Esatto, perché noi stiamo distruggendo un ecosistema. Se invece scomparisse, per esempio, una categoria di animali, le api, Sarebbe la fine. Sarebbe la fine, perché a causa dell'impollinazione mancherebbe poi un insomma. Quindi pensate quanto poco siamo indispensabili noi uomini e quanto siamo troppo disastrosi e invasivi. No, sì, perché uno quando legge queste cose dice: ecco, lo vedi che gli animali sono pericolosi, lo sapevo io, lo vedi. E invece quello che succede è che l'uomo è l'animale più pericoloso al mondo. Allora, adesso abbiamo in linea una persona che può testimoniare sul fatto che l'uomo è l'animale più pericoloso al mondo. Pronto, Giusy? Ciao, Angelo. Allora, ciao, Giusy, buongiorno. Buon pomeriggio. Ciao, Giusy Cozza è uno dei responsabili dell'associazione ADAN di Grumo Apula in Puglia. Sei d'accordo che l'uomo è la specie più pericolosa al mondo, Giusy? Assolutamente sì, purtroppo i randaggi pugliesi sono la testimonianza diretta di questa triste verità, perché l'80% diciamo dei nostri recuperi grosso modo sono tutti dovuti a maltrattamenti causati proprio dall'uomo, con dolo, con intenzione, con crudeltà. Che vuol dire questo? Restano tutti impuniti. Ah, restano anche impuniti. Sì, restano impuniti perché c'è purtroppo da queste parti la credenza comune che appunto, diciamo, la vita di un animale sembra ridicolo. Nel 2015 purtroppo esporre di questi concetti, però effettivamente qui, a queste latitudini, la vita di un animale ancora non riusciamo a far sì che venga considerata poco, alla stregua di quella dell'essere umano. Tanto è un oggetto, una scarpa vecchia, buttiamo il cane. È allucinante, pensa che abbiamo visto anche una statistica poco tempo fa, appunto, che diceva che purtroppo la regione della Puglia in questo c'è un primato in tutta Italia di abbandoni e di... a me spiace perché io sono di origini pugliese e mi vergogno veramente, cioè è veramente meschino un atteggiamento del genere sui più deboli. Lo so, io purtroppo, diciamo, con rammarico vado a, diciamo, a esternare questo genere di testimonianze, perché anch'io sono assolutamente meridionalissima e tante volte mi sento quasi di vivere nel mito del nord, che sembra anche un concetto abbastanza ridicolo, però oggettivamente sono tantissimi anni che la nostra associazione fa adozione al nord, anzi assolutamente la stragrande maggioranza dei nostri cani adottati sono adottati proprio al nord, e sinceramente non ho gli stessi esiste. Ci vuole una cultura diversa. Ma, Giuse, scusami, ma tu che sei lì, ma si può fare una cosa al positivo? Cioè creare, inventarsi qualcosa, stimolare le persone, creare, che ne so, un interesse, una colletta, non una colletta di soldi, un qualcosa che ci accomuni, una gara, qualcosa. Mia mamma mi ha insegnato che praticamente non si può fare del bene pensando al male, perché esatto, diciamo, è un concetto molto bello quello di vedere sempre del positivo. Lei riesce infatti ad andare avanti dal 97 con questo spirito che francamente anche io a volte non riesco, diciamo, a mantenere in termini di positività. Però diciamo che non c'è purtroppo assolutamente nessun responso da parte della cittadinanza, della gente comune. Dobbiamo, cioè, pensare a qualcosa. Al momento, beh, qualcosa, sì, la stiamo, sì, facendo già di utile adesso parlando in radio. Ma Giuse, prima ci parlavi di casi tipo dolo, no? Queste cose qua. Cioè, ci racconti una storia? Sì. Allora, una storia, più che altro siamo in estate e mi viene in mente, diciamo, la purtroppo bruttissima, diciamo, la bruttissima abitudine che si ha da queste parti di non sterilizzare gatte e cani di proprietà. Uh-huh. E noi, come ogni estate, Angelo, praticamente salviamo intere cucciolate gettate nei cassonetti. È una, cioè, cosa che da 20 anni non si riesce assolutamente a venire. Ma tu ne parli come se fosse una cosa all'ordine del giorno. Ma quasi non riuscite a beccarli queste, mettere delle telecamere, insomma, Milano è tempestato, no, di telecamere ovunque vai in giro. Assolutamente, eh? No, vabbè, noi siamo un piccolo paesino, diciamo, la nostra associazione, l'ADAN, opera soprattutto a Grumo Appule e dintorni, nella provincia di Bari, dove non esistono, diciamo, telecamere assolutamente. Allora facciamo una cosa, Giuse, siccome la radio è un mezzo che io adoro, potente, è un media importante, Radio 24 poi l'ascolta tutta l'Italia, arriva dappertutto, quindi io invito, grazie, chi ci sta ascoltando, visto che oggi con i cellulari si riprende qualunque cosa anche inutile, selfie piuttosto che non selfie, chiunque va in giro e vede questa gente nel momento in cui sta mettendo, buttando una scatolone, di andare a vedere se ci sono dentro dei cuccioli, piuttosto che non riprenderli e portarli dai carabinieri o alla polizia, sti filmati, o portarli a voi, che poi, allora, voi li portate. Assolutamente, perdonami se ti interrompo, assolutamente sì, invito a fare questo. Mi rendo assolutamente disponibile, cioè noi ci rendiamo da sempre come associazione disponibili anche a seguire l'aspetto legale, abbiamo 3 avvocati che gratuitamente prestano servizio per la nostra associazione. Bene. E che quindi seguono poi i risvolti legali. Sai qual è il problema più grande? Uh-huh. Che nessuno denuncia, c'è un omertà, il famoso omertà. Guarda, io credo che qualcuno lo farà, io voglio dare anche l'indirizzo del nostro programma, che è chiedimi se sono felice @radio24.it, 24 scritto in numero, così mandatevi video a noi, non occorre che noi sappiamo chi ce lo manda, l'importante è che si veda bene la persona o il luogo o una targa o un numero civico di quello che stanno facendo. Poi chi vuole mantenere l'omertà, almeno da nascosto ci aiuti, perché tanto, guarda, nella vita tutto ritorna, quello che uno semina raccoglie, il karma, il prima o poi tutto ritorna. Se vogliamo trasformare poi la lamentela o il dito contro in qualcosa di positivo, possiamo sostenere l'associazione di Giuse, che è l'associazione ADAN, che sta per, Giuse, Associazione Difesa Animali e Natura. Perfetto, allora chi voglia adottare può scrivere ad associazione ADAN @yahoo.it, e chi vuole donare, anche fare un'associazione che va in aiuto a questi cani maltrattati e accuditi da Giuse e la sua associazione, può fare una donazione tramite PayPal, associazione ADAN @yahoo.it. Grazie Giuse, sei stata preziosissima. Grazie a voi per averci dato voce, grazie. Ma figurati, grazie. Ciao Giuse, ciao. E ora ci sta la viabilità. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Eccoci. Allora, sei sempre felice? Io felicissimo. No, ma per forza, sai, con che... un donnino come me non si potrebbe essere felice, amore. Anche perché se ti lamenti, sono mazzette, anche per chi prende i cani per moda, perché sai che ci sono anche le mode, certo, dei cani, quella del Dalmata, quella del 101, quella dell'Husky, vi dicendo. Ora va di moda il lupo cecoslovacco, che è un gran cane. Bellissimo, anche sono... io lo vorrei prendere ancora. Però... ci sono pro e contro. Abbiamo al telefono un collega di cui mi fido molto, che è vissuto per molti anni con un lupo cecoslovacco, è ancora con lui, e lui ci racconta i pro e soprattutto i contro del lupo cecoslovacco. Ciao Luca. Ciao, buona giornata. Luca Niero è istruttore cinofilo del centro cinofilo Cani per Caso di Mestre. Cosa ci racconti sul lupo cecoslovacco? Ma Allora, io spesso le persone mi chiedono un consiglio in questo senso e devo dire che la mia battuta iniziale è sempre questa: dipende da. Certo. Dipende veramente da quanto tempo, passione e voglia si ha da dedicare a un cane molto particolare. Ma perché ci sta, ecco, esatto, perché ci sta ascoltando? Perché il lupo cecoslovacco è un cane così particolare rispetto agli altri cani? Intanto nella sua storia molto recente c'è la presenza del lupo. Quindi, se i cani che ci accompagnano nella vita di tutti i giorni hanno un rapporto con questo progenitore molto lontano, svariate migliaia di anni, probabilmente separano la maggior parte dei nostri cani da un progenitore selvatico. Il lupo cecoslovacco ha nella sua storia questa presenza tirata indietro di qualche decina d'anni, a volte anche meno, a seconda delle linee di sangue e degli allevamenti che hanno introdotto questa razza meravigliosa in Italia. Noi abbiamo fatto una selezione per i cani perché possano vivere con noi nelle nostre città, nelle nostre famiglie, con delle attitudini caratteriali apposite, no? E invece, esatto, con questa immissione di sangue di lupo abbiamo fatto dei passi indietro da questo punto di vista. Sì, ci riavviciniamo a un qualcosa di meno domestico, vicino a noi, meno domestico, con i pro e i contro. Certo. Il pro, se ne vogliamo dire uno su tutti, è il fascino. Certo. Indiscutibile. Esteticamente non solo, è un cane che affascina tanto. I contro possono essere proprio la presenza di alcuni tratti del carattere che mal si sposano con la vita di tutti i giorni. Ne dico uno su tutte: quella normale diffidenza, attenzione al nuovo in un'ottica un po' di vederlo un po' da lontano, tipica del lupo, o meglio, molto presente nel lupo. Il lupo cecoslovacco ce l'ha comunque tanto, nei suoi tratti, per cui spiegaci meglio perché Rosita, cioè, sta aggrottando, sì, no, perché non la ho capito, fronte, non ha capito, sì, che cosa significa. Non ho capito bene, cioè, ho capito da... dimmi, scusa. Se noi prendiamo ad esempio tutte quelle cose molto particolari che fanno parte della vita di tutti i giorni in una famiglia normale che vive ad esempio in città o in un paese, sì, macchine, traffico, sì, persone di tutti, sì, i tipi, di tutte le età che ci passano vicine in ogni momento della nostra giornata quando siamo fuori dal contesto di casa, ecco, queste possono essere per il lupo cecoslovacco tipico, mettiamola così, un qualcosa di complesso da affrontare, che comporta stress, che comporta difficoltà, che a volte sfocia in comportamenti di evitazione, quindi il cane che si vede un po' in difficoltà si allontana, cerca di trovare delle sicurezze allontanandosi dai problemi, altre volte questa cosa può essere gestita affrontandola, certo, quindi trovandosi di fronte a dei comportamenti che attraverso dinamiche di aggressività tendono a tutelare l'individuo o la famiglia del cane, in questo, sì, caso, da queste problematiche. Quindi diciamo che, per esempio, il lupo cecoslovacco non sarebbe un cane per bambini. Questa dipende. È un po' un'etichetta, sì, non la vedrei sotto questa sfaccettatura, non è questione da bambini o da adulti o da rossi, no, però o sai, si dice che il Labrador e il Golden Retriever sono i classici cani che il bambino ci può dormire in mezzo alle zampe, gli può tirare il pelo, insomma, tendenzialmente sono cani veramente pacifici. Potremmo aprire tante considerazioni anche su questo tema. Lo so. Perché tu hai anche un Labrador o due. Ma non soltanto, ha anche tre bambini. E c'ha anche tre bambini. Ma tu, allora Luca, tu fai la vita quella che vorrei fare io, tipo pipi calze lunghe, ti manca il cavallo che ti transita per la cucina, sì, e la scimmietta. È stato chiesto di avere anche quello, esatto. Però diciamo che, parlando anche di scimmiette, un nostro amico e corsista alla nostra scuola una volta ci ha raccontato, avendo lui una scimmia in casa quando era piccolo, del fatto che questa, quando si arrabbiava, usava a prendere la propria cacca e tirarla in testa. No, fantastico. Ma avantissima la scimmia, meno male, esatto, la cacca, non un coltello da cucina, perché sennò... Eccola qua, e qua ti volevo, perché effettivamente la scimmia evidentemente ha scelto questo comportamento per dimostrare il suo disappunto. Certo che quando un cane delle caratteristiche e delle dimensioni di lupo cecoslovacco decide di mostrare il suo disappunto, la sfera dell'aggressività è una sfera che può manifestarsi. Ora, sì, che questo sia nei confronti di un bambino, sia nei confronti di un adulto, di un altro cane o di qualsiasi altro essere che è attorno, ecco che questa cosa può avere dei risultati che possono essere veramente pericolosi. Questo ovviamente vale per ogni cane, però nel caso del lupo cecoslovacco tutta questa docilità che in altre razze è stata lungamente ricercata, questo avere in qualche maniera l'uomo come riferimento molto molto stretto, nel caso del lupo cecoslovacco non è così scontato. E qui vengo al discorso del tempo. Sì. Se noi possiamo dedicare molto tempo a creare una relazione, uno stile di vita condiviso con questo cane, possiamo vivere veramente tante esperienze assieme in maniera meravigliosa. Il problema è che difficilmente noi possiamo essere dei riferimenti così affascinanti e così appaganti, interessanti per essere veramente un tutt'uno. Quindi è da un lato affascinante vincere questa sfida di entrare in sintonia così stretta, dall'altra bisogna avere anche la ragionevolezza che se tante decine di migliaia di anni ci hanno accompagnato ad avere il cane, veramente vivere con un cecoslovacco può essere una sfida talvolta che viene persa, costosa sotto tanti punti di vista, e talvolta è una sfida che viene persa perché sono tante le persone che adottano il lupo cecoslovacco con una certa leggerezza nonostante tutte le raccomandazioni degli allevatori, perché oramai gli allevatori cecoslovacco sono piuttosto attenti e dicono mi raccomando, perché c'è tutta una serie di precauzioni, devi essere capace, sviluppare capacità, devi dedicargli tanto tempo come ci sta dicendo Luca, nonostante tutte queste raccomandazioni purtroppo non ci si attengono loro evidentemente, e a volte si trovano in guai seri con un mezzo lupo. Sì, io credo che questo sia un aspetto veramente importante. Essere disposti a dedicare molto tempo ed essere disposti a modificare il proprio stile di vita e alcune modalità del vivere di oggi nel momento in cui si adotta un cane di questo tipo, credo che debba essere la presa di coscienza più forte. Principale. Sì. Perché se noi siamo flessibili e possiamo sì chiedere a questo cane meraviglioso di essere adattato in qualche maniera a noi, ma noi in primis disponibili ad adattarci a lui, ecco, probabilmente la convivenza ha dei margini di riuscita ampi. Qualora invece certe nostre modalità di vita prevedono più che altro un adattamento del cane a noi, ecco, lì delle rigidità date da una selezione così recente, da un addomesticamento così non al 100% completo, può portare delle problematiche di convivenza, sì. Indipendentemente da chi decida di fare questa scelta. Io sulla mia esperienza personale ho avuto modo di capire, di concentrarmi, di ritornare su questo tipo di elemento, e credo che proprio la consapevolezza di questa elasticità nella vita di tutti i giorni è un elemento chiave nel vivere con questo tipo di cani. Grazie Luca, sei stato preziosissimo. Grazie Luca. Un abbraccio, a presto. Buona giornata a tutti. Ciao. Vedi l'importanza delle razze, cioè quando uno va ad adottare un cane, una certa razza, purtroppo si deve rendere conto che si porta dietro non soltanto un'estetica, ma anche delle attitudini caratteriali. Quindi giustamente quello che diceva lui, che bisogna dedicargli del tempo, dobbiamo essere noi ad adattarci a loro, che e vale non è per contrario. Tutto. Vale per qualunque razza di cane, vale se si fanno i figli, vale se ci si fidanza, vale se si convive con un amico, con gli altri cani cosa succede? Il massimo che succede è che il cane non si adatta e fa una vita infelice, cioè se gli chiediamo se è felice lui ci dice no. Nel caso del lupo cecoslovacco ci sono guai seri perché può arrivare a mordere, a mostrare aggressività e causare un sacco di danni. Chiediamogli se è felice al lupo cecoslovacco, va? Chiediamoglielo. Bene, e anche per questo weekend vi salutiamo, Rosetta Celentano e Angelo Vaira. Scriveteci a chiedimi se sono felice @radio24.it. Baci.